Lo incontro ogni mattina e ogni notte in Santa Croce, con la sua granata in mano, brontolando mezza voce. Che vento e quanto freddo, che sporco tutto intorno. Francesco mi saluta in fretta e poi torna a pulire il mondo. A un tratto oscilla, sbanda, invaso dalla fantasia. Da un manifesto una donna sorride e lui lo strappa via. Francesco dentro il vento spazza e non può spiegare, perché anche se c'è il sole lui sente freddo e deve urlare. Spazza pianeti e stelle, il buio e la paura dell'universo, resta solo un mucchio di spazzatura. La prima volta che lo vidi, qualcuno disse quello è matto. È stato dentro tante volte, ma del male non ne ha mai fatto. Pulisce tutto il giorno e trascina scatoloni. Francesco è sempre sporco e spettinato, e gli occhi non son buoni. Nel buio oscilla, sbanda, cade, è la sua malattia. Stringe quel foglio di donna che gli sorride e che non scappa via. Francesco dentro il vento spazza e non può spiegare, perché anche se c'è il sole lui sente freddo e deve urlare. Spazza il dolore, i giorni, la vita che non dura, tutto l'amore, tutti i sogni che noi buttiamo via. Spazzatura.